Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Con voi Sebastiano Barisoni, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La Banca Centrale Europea ha lasciato, come ampiamente previsto, i tassi invariati, ossia il costo del denaro al minimo storico in Europa, all'1%. Ma la cosa più importante oggi, ne parleremo anche nella seconda ora, è che sia la Banca Centrale Europea che l'OCSE, altro organismo che raggruppa le principali economie, hanno rivisto le stime sulla crescita, o meglio, sulla recessione del 2009 e sulla crescita del 2010. Le hanno riviste in meglio. Adesso potremmo anche dilettarvi, per modo di dire, con una raffica di dati percentuali e variazioni decimali. Basti dire che rispetto alle attese, l'OCSE prevede che i paesi, nel caso specifico l'Italia, farà un -5,2 invece che un -5,5, e la Banca Centrale Europea prevede che l'Italia farà quest'anno, anche in questo caso, un mezzo punto percentuale, un -5% contro un 5,5. Complessivamente la Banca Centrale Europea ritiene che in Europa la recessione sarà pesante, ma si fermerà tra un -3,8 e un -4,4, non più tra un -5,1 o un -4,1. Direte voi, sono decimali. Ho capito, è chiaro che quando il segno meno poi accompagnato da un 4%, da un 5%, nessuno si può rallegrare. Diciamo che è la conferma che comunque si sta uscendo da questa crisi in maniera forse più rapida, lo dice la stessa OCSE. La ripresa arriverà prima del previsto, ma sarà debole. Qui potremmo fare intere puntate non so quanto interessanti per decidere se sarebbe stato meglio avere una ripresa più tardi ma più forte o prima ma più debole. Non lo so, l'importante è che arrivi e poi che sia capito debole all'inizio ma che poi si strutturi. Al di là di questo parleremo anche come sempre della borsa, più 1% il FTSE MIB in questo momento come FTSE All Shares, Parigi -0,3, Francoforte -0,12, Londra -0,30. L'America guadagna lo 0,3% adesso sul Dow Jones. Come sentite, Milano è l'unica positiva tra le principali borse europee e il motivo si chiama soprattutto Fondiaria SAI, più 4,90%, Atlantia più 4,6%, Impregilo più 4,5%, Buzzi Unicem più 3,1% come Unicredito, forte oggi il titolo, a 2,50 euro, Prismian più 2,4%, Geox più 2,3%, e poi una pattuglia di titoli che guadagna tra l'1 e il 2%, e penso a Saipem, Italcementi, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, Telecom Italia, Autogrill, Enel ed ST Microelectronics, ma anche Pirelli. Parleremo invece in apertura di un tema che è a cavallo tra politica e finanza, già ieri l'abbiamo toccato ampiamente, come mettere un tetto, forse più che un tetto, delle regole alle paghe milionarie, che quindi diventano miliardarie, dei manager bancari, ma non solo, alla luce poi dei disastri che le banche d'affari americane, ma non solo, hanno generato. Ieri abbiamo fatto una puntata nella prima mezz'ora proprio facendovi ascoltare quanti erano le migliaia di licenziamenti e quanto guadagnava il ministro delegato. Alcuni hanno detto è populismo. No, mi dispiace, lo stesso Gordon Brown, Angela Merkel e Sarkozy oggi sono tornati sul tema e hanno detto che arriveranno al G20 di Pittsburgh con un pacchetto di proposte per legare e avere anche regole maggiori sulle paghe dei manager bancari. Non è populismo, anche perché siamo tutti d'accordo, perlomeno a parole, che non si debbano ripetere gli errori del passato e quindi che quello che è successo diciamo l'anno scorso debba essere impedito il più possibile. Beh, si parte anche da una governance, ossia da una politica retributiva un po' più così sana rispetto a quelle che abbiamo visto mentre scoppiava la crisi. Ancora sui temi parleremo anche, perché c'è stata una lettera oggi di molti economisti piccati con il ministro Tremonti, noi la cosa l'abbiamo cinicamente, vigliaccamente cavalcata fin da lunedì, continueremo a farla anche oggi, mi riferisco all'intervento del ministro Tremonti al meeting di Rimini, con quella frase che non ho nessun problema a dire, secondo me è bellissima, poi apre anche un dibattito. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Volete sapere già il petrolio, e ve lo diamo il petrolio, il valore chiaramente, non il barile, $68.34 al barile, è un leggero aumento comunque sotto quota $70. Mondo delle compagnie aeree, oggi brutte notizie per Lufthansa, che è la seconda compagnia aerea in Europa, si è vista tagliare nettamente il giudizio sul suo debito, o meglio sulla solvibilità delle sue obbligazioni. Se vogliamo è anche peggio, portate a livello di junk, ossia spazzatura, da parte dell'agenzia di rating Moody's. Tra l'altro questo vorrà dire che in qualche modo le ripercussioni si faranno sentire sui 2 miliardi di debito che Lufthansa ha, e Moody's ha giustificato il declassamento a livello di spazzatura delle obbligazioni Lufthansa dicendo che le deboli condizioni del mercato peggioreranno ulteriormente i coefficienti di credito della compagnia aerea Lufthansa. E auguri a questo punto per l'Italia se Lufthansa piange. Economia internazionale, qualche dato sempre in chiaroscuro, dispiace dirlo, ma dall'America non arrivano segnali univoci. I sussidi di disoccupazione sono scesi, ma non quanto ci si attendeva, meno 4.000 contro i 6.000 attesi. L'indice SM Servizi è invece cresciuto in America più delle attese. Poi dicevamo già dell'OCSE, che ha detto la recessione sta rallentando in tutto il gruppo dei G7, che però chiuderanno il 2009 con un meno 3,7% di media di PIL. La recessione rallenta anche in Italia, che chiuderà con un meno 5,2%. La ripresa è arrivata un po' prima del previsto, ma un po' più debole forse del previsto, e i governi insistono con le politiche di stimolo. La Banca Centrale Europea, ripeto, anch'essa ha rivisto migliorandole tutte le previsioni di calo, cioè il calo resta, a chi ci chiede spiegazioni, resta il segno meno ed è anche pesante, però è un meno di quello di qualche mese fa. Meno 5,1% l'Italia quest'anno contro un meno 5,5% previsto, l'Europa complessivamente appunto non dovrebbe andare oltre meno 4,4%, e con i tempi che corrono ci si accontenta anche di questo. Sempre la Banca Centrale Europea ha lasciato il costo del denaro invariato all'1%, ha definito Jean-Claude Trichet i tassi di interesse dell'area euro appropriati, anche perché i segnali crescenti sono di una crescente stabilizzazione in Europa, e poi l'inflazione, sempre secondo Trichet, potrà tornare positiva già nei prossimi mesi, cioè tornare l'inflazione già nei prossimi mesi. Sentiamo Trichet. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il livello attuale è appropriato considerando le informazioni disponibili. Il tasso annuale di inflazione era leggermente negativo ad agosto e il ritorno ad un livello moderatamente positivo è atteso nei mesi a venire. Allo stesso tempo, gli ultimi dati supportano la nostra visione di un'economia in via di stabilizzazione sia nell'area euro che altrove. Uno scenario in linea con le attese, secondo cui la significativa contrazione dell'economia è giunta alla fine. Seguirà un periodo di stabilizzazione e una ripresa molto graduale. Le attese a medio termine per inflazione rimangono ancorate alla nostra missione di mantenere il tasso intorno al 2%. Voglio aggiungere che c'è stata unanimità nel giudicare appropriato l'attuale livello dei tassi. Vi do appuntamento nel corso dell'inverno per le future possibili decisioni. Sono solo sempre previsioni, chiamale se vuoi previsioni, avete ragione, sono previsioni quelle dell'OCSE, della BCE, sappiamo quello che valgono in questo periodo anche molto poco. Comunque, ne parleremo fra pochi minuti, perché su questo insomma anch'io sono molto scettico, forse è meglio stare un po' più zitti, aspettare di vedere, avere dati un po' così, un po' più strutturali. Mi sembra quasi una bulimia da previsioni, forse con la coda di paglia di chi non ha saputo prevedere a suo tempo, ma sono sospetti maliziosi. Andiamo avanti invece, perché oggi la Confindustria italiana e la Confindustria tedesca, quindi Emma Marcegaglia e Hans-Peter Keitel, hanno chiesto al Presidente della Commissione Europea Barroso e al Presidente di turno del Consiglio Europeo di allentare immediatamente le regole in vigore previste dall'accordo di Basilea 2, è quell'accordo che stabilisce dei rating, dei criteri attraverso a cui si devono rifare le banche per concedere un prestito agli imprenditori, per cui non è più tanto soggettivo, questa è l'accusa grossa a Basilea 2, ma ci sono dei criteri di IAS a cui le banche devono attenersi, nato con l'obiettivo di dare uniformità al giudizio sulla qualità di un imprenditore, quindi del credito che va a chiedere, si è rivelato a mio avviso un po' una gabbia nella valutazione del banchiere poi se concedere o no un prestito, ma un prestito, comunque ne parleremo dopo. Invece di banche o della visione che hanno le banche sulla ripresa ha parlato oggi il numero uno di Unicredito, Alessandro Profumo, ha detto non c'è ancora ripresa ma l'arresto della caduta, lo ha spiegato la nostra Alessandra Schepisi. Abbiamo smesso di cadere. Il padre era un ingegnere, diceva sempre che quello che è importante è la derivata seconda, cioè quando i fenomeni cambiano segno. Credo che sia importante dire che oggi la discesa è terminata, non siamo ancora in piena ripresa, questo assolutamente no, però ci sono dei segnali soprattutto negli Stati Uniti, e ricordiamoci che la crisi è partita negli Stati Uniti e finirà negli Stati Uniti, dei segnali direi positivi. E poi Profumo, visto che Unicredito è molto presente nell'Europa dell'Est, da lì venivano anche alcuni timori, ricorderete nei mesi passati, si è spinto anche a analizzare come sta andando l'Europa dell'Est. Europa dell'Est che si è temuto a gennaio-febbraio potesse essere il ventre molle dell'Unione Europea, cioè contenere virus altamente infettivi di prodotti tossici. Sentiamo Profumo sul sviluppo dei paesi del centro-est Europa. In centro-est Europa, quando c'era molta paura, si ricorda, noi veniamo tacciati di essere ottimisti, poi con sei mesi di ritardo avevamo ragione, no? Oggi credo non si può essere sovraottimisti, quella è un'area del mondo che certamente di nuovo uscirà dalla crisi prima dell'Europa occidentale. Perché sono paesi comunque con una reattività maggiore, no? Teniamo presenti che poi hanno molti di questi paesi livelli di interscambio e di esportazione verso aree del mondo che stanno di nuovo crescendo in modo consistente, più intense dei nostri. Parlo del Middle East, dove ovviamente il prezzo del petrolio è un driver fondamentale della crescita, parlo della Russia, parlo quindi centro-est Europa non era così negativo a febbraio, non si può dire che oggi sia in pieno boom, ma certamente insomma, vediamo dei segnali di miglioramento. Queste le nostre notizie in breve. Allora entriamo nel primo tema che comunque ci lancia oggi sempre il numero uno di Unicredito, Alessandro Profumo, perché vista la polemica, che più che polemica è proprio una proposta che sta arrivando a livello europeo per il prossimo vertice di G20 a Pittsburgh, di avere delle regole sulle remunerazioni nel settore finanziario, anche Profumo è stato chiesto insomma, che ne pensa delle regole sui bonus. Si è raggiunta l'intesa sul fatto di dare una logica nella misura in cui si pagano i bonus a tutti i manager, queste logiche sono già totalmente implicite nei modi con i quali noi lavoriamo in Unicredit. Sì, c'è un'intesa di massima per limitare il bonus dei manager delle banche e delle istituzioni finanziarie. La notizia è arrivata a metà giornata. Francia, Germania e Gran Bretagna vogliono che il G20, quindi prossima riunione di fine mese, imponga regole obbligatorie e sanzioni sulle remunerazioni nel settore finanziario, tra cui un plafond per i bonus. Lo hanno scritto in una lettera congiunta Nicolas Sarkozy, Angela Merkel e il premier britannico Gordon Brown, un francese, un tedesco e un inglese. Non è una barzelletta, è una richiesta, vedo già il tecnico che ride, ma è proprio una richiesta fortissima che già ieri si intuiva, e non a caso abbiamo dedicato un'intera prima parte della puntata a questo. Nella lettera i tre premier europei chiedono una serie di principi e poi che vengono trasformati questi principi in regole obbligatorie per gli istituti finanziari di dimensioni importanti, comprese sanzioni a livello nazionale per le banche che non applicano queste regole. E poi dovremmo anche esaminare gli strumenti per limitare l'ammontare delle remunerazioni variabili nelle banche, i bonus cosiddetti, sia in proporzione alle remunerazioni totali, sia in funzione dei redditi e dei profitti della banca. Quindi non più le cose a cui abbiamo assistito. Ora, molti di voi ci hanno già scritto, ma perché anche i politici non si danno un tetto? A parte il fatto che questa volta la politica non ha nessuna responsabilità, o perlomeno ce l'ha in diretta, se vogliamo, sullo scoppio di questa crisi finanziaria. Comunque, la stessa domanda l'hanno fatta dei giovani disoccupati in un programma della radio alla BBC, perché in Inghilterra le domande si possono fare tranquillamente, nessuno si arrabbia. Ecco la risposta del primo ministro britannico Gordon Brown. We've frozen our pay, but I think the most important thing is you make a decision as a society. Abbiamo congelato le nostre buste paga, ma credo che la cosa più importante sia che venga presa una decisione a livello di società nel suo insieme. Ecco perché abbiamo dovuto alzare le tasse per le persone più abbienti. Io sarei preparato ad accettare un taglio di stipendio, ma credo che il punto centrale in tema di tasse sia che a chi guadagna di più dovrebbe essere chiesto di contribuire in modo maggiore nel percorso di uscita dalla recessione. Ciò spiega la decisione di aumentare la tassazione per chi guadagna salari molto alti. Questo darà un contributo alla creazione di posti di lavoro, un obiettivo che stiamo perseguendo. Professor Franco Bruni, che oltre che essere editorialista della Stampa di Torino, insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano. Buonasera. Buonasera. Oggi lei mi potrebbe fare da jolly, perché insegna economia monetaria e potremmo parlare della Banca Centrale Europea. È un economista, quindi mi risponderà sulle accuse che vi ha fatto Tremonti di essere tra Mago Temma e Mandrake. E poi ha scritto anche in prima pagina oggi sulla Stampa un pezzo in cui, la faccio un po' forte, difende i bonus, o dice attenzione a non concentrarsi sui bonus dei manager. O non usarli come capro espiatorio e caccia alle streghe. Partiamo proprio da questo. Io capisco che c'è l'accusa di populismo a leggi, però quando io leggo che Citigroup ha licenziato 75.000 persone, ma il suo amministratore delegato ha guadagnato 38 milioni di euro l'anno scorso, mi interrogo. Se poi vedo che American Express ne ha licenziate 11.000, ma il suo amministratore delegato ne ha guadagnati 43 di milioni di dollari, mi interrogo di nuovo. Se poi vedo che Bank of America ha licenziato 37.000 persone e il suo amministratore delegato ha guadagnato 12 milioni di euro, è un'interrogazione continua. Siccome voglio smetterla di interrogarmi, le chiedo, è giusto? Ma guardi, ci sono diversi profili del problema. Uno, quello della giustizia, diciamo, distributiva, insomma, e lì bisogna che sono le autorità fiscali di ciascun paese, si possono tassare questi compensi, ma fino a che si vuole, si può anche mettere una tassazione del 100% a un certo punto se uno li ritiene eccessivi, non solo questi naturalmente, non solo quelli dei banchieri, ma il punto più importante, quello che si sta in questo momento discutendo a livello internazionale, non è questo, è l'aspetto dei compensi come incentivo ai banchieri a operare nel modo giusto senza mettere a rischio le loro banche e i risparmi di chi li affida alle banche. Questo è l'aspetto importante, perché le remunerazioni in questi anni sono state organizzate all'interno di molte banche in modi che incentivavano al rischio, incentivavano a fare operazioni troppo rischiose, spesso con il vantaggio poi del singolo operatore o del suo singolo gruppo e non della banca nel suo insieme, molto nel breve periodo, in modo non trasparente, poco conosciuto anche ai consigli di amministrazione e alle autorità di vigilanza. Tutto questo deve smettere e ci stanno lavorando da tempo le autorità competenti, che sono le autorità di vigilanza. Il Financial Stability Board ha preparato un documento di 15 pagine già in aprile, ci sono quasi tutti i principi importanti, dettagliati. Quello che sta mancando è, diciamo, il consenso forte dei politici, che speriamo arrivi in questa occasione, perché un conto è fare delle sparate così come stanno facendo questi signori alla ricerca di titoli sui giornali, un conto è prendere sul serio una decisione comune in Europa ed essere poi capaci di trattare con gli Stati Uniti in modo da arrivare a fornire alle banche centrali e alle autorità di vigilanza, che sono poi quelle che devono entrare nei dettagli e devono verificare che queste remunerazioni, diciamo, meglio organizzate vengano effettivamente messe in atto, devono dargli il supporto, diciamo, della decisione politica. Ma i politici sono molto, molto esitanti nel farlo, perché se da un lato gli piace di fare i giustizieri con i banchieri cattivi, dall'altra parte ciascuno di loro ha molto care le banche della propria piazza e non vuole essere il primo a partire con dei vincoli che dopo favoriscono le piazze degli altri, e quindi fanno ridere questi politici che continuano da una parte a, diciamo, a fare i giustizieri, dall'altra parte gli amici dei banchieri. Beh, speriamo che smettano questa pantomima e prendano delle decisioni importanti, e io su questo non ho assolutamente niente da dire contro, anzi sono, è uno dei provvedimenti importanti da prendere per uscire dalla crisi con un sistema che funziona meglio. E il mio articolo non si, si guarda bene dal, anzi spiega che questo lo si sta facendo e va fatto. Mm-hmm. Quindi lei dice siano concreti e non solo, diciamo così, velleitari. Una cosa, io per definizione, per ruolo, sto sempre dalla parte di chi non c'è, quindi faccio anche l'avvocato del diavolo. La politica, a mio avviso, ha ben donde e ha ben ragione nell'avercela con le banche d'affari, perché si è ritrovata Angela Merkel, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Gordon Brown e Barack Obama a gestire una crisi, quindi a stornare risorse per una crisi che oggettivamente non ha causato la politica, cioè non c'è stato un eccesso di investimenti, di debito fuori controllo, tutta roba che si sono fatti in casa, ci hanno guadagnato in questi anni. Io non vorrei ripetere ogni volta la lista dei guadagni dei manager mentre chiudevano le banche, questi continuavano a distribuirsi 6 miliardi, 5 miliardi, 4 miliardi di bonus, con i soldi degli americani spesso, perché nel frattempo i cittadini americani salvavano le banche e loro si distribuivano i bonus. Ho capito il suo ragionamento, dice andiamo sulla concretezza. C'è un punto di fondo però che mi sfugge, professor Bruni, e riprendo quello che ci disse a questi microfoni il suo collega Giulio Sapelli qualche mese fa. Ma non basterebbe lo stipendio? Cioè, se io faccio l'autista del tram, non è che se non tiro sotto nessuno mi danno un bonus, vengo pagato per non tirare sotto la gente se guido un tram. Se faccio l'amministratore delegato di una banca, vengo pagato per mantenere valore al titolo, avere una sana e prudente gestione e avere anche degli utili. Se poi un anno faccio degli utili, sto per dire degli utili fortissimi, va bene, ma perché questo bisogno, oltre allo stipendio, di milioni e milioni di bonus? Ho capito, lei dice diamogli nell'arco di 5 anni, non nell'arco di... ma perché? C'è lo stipendio, non si piglia lo stipendio, poi se fa una cosa straordinaria... No, fa parte della, diciamo, della logica delle organizzazioni di tutti i tipi, moderne, quella di dare degli stipendi che siano organizzati in modo incentivante, lo facciamo anche noi in università. Se noi insegniamo meglio, abbiamo dei migliori giudizi, insegniamo un po' di più e facciamo degli articoli più letti sulle riviste più importanti, ci pagano di più. Certo. Dovrebbero fare per i vigili urbani, facendo in modo che siano pagati di più non quanto danno più multe, ma quando fanno più controlli. E in banca, siccome c'è un capitale umano diciamo più sofisticato, molto sofisticato, e che deve essere motivato nel modo giusto, perché ha una grande autonomia, prende decisioni molto importanti, e queste decisioni devono essere incentivate dalle regole dello stipendio, in modo che facciano beneficio a coloro i cui soldi vengono amministrati da questi signori. Quindi è molto importante che le remunerazioni siano dei dirigenti e dei funzionari che hanno, diciamo, le responsabilità più autonome e più importanti, siano attentamente organizzate in modo incentivante. Dopodiché non vuol dire che debbano essere altissimi, vuol dire che devono essere diversi a seconda di quello che questi signori riescono a fare col loro lavoro. Se sono più bravi devono essere pagati di più, se hanno buoni risultati nel medio e lungo periodo, senza prendere troppi rischi, devono essere premiati. Sì, adesso ho capito benissimo il suo ragionamento. Leggo anche in sms contrari al mio pensiero, questo va benissimo. Dunque, hanno fatto bene invece che cosa avrebbero dovuto fare questi manager? Tenere migliaia di dipendenti in esubero? Tanto quei bonus si sarebbero pappati comunque gli azionisti, non i dipendenti in esubero. Vabbè, questo che vuol dire? Comunque, se poi gli azionisti non vanno questi criteri, possono decidere. Insomma, anche lì sulla governance, ogni tanto abbiamo i consigli di amministrazione in cui tutti decidono che tutti devono avere un aumento, per cui io voto il tuo aumento, tu voti il mio, capirai. Hai mai visto qualche consigliere che si alza a dire no, io sono contrario al tuo aumento e anche al mio? Vabbè. Dopo le informazioni meteo, professor Bruni, veniamo all'altro tema, che è quello degli economisti. Oggi ce n'è per tutti, no? Maggio Thelma e Mandrake, fermo restando che secondo me, attenzione, il tema della governance interna a questi gruppi bancari è fortissimo. Vi lascio con un ultimo dato: 1980 il rapporto tra amministratore delegato e ultimo impiegato era di 1 a 87. 2007 questo rapporto è passato a 1 a 270. Secondo me un'origine di questo delirio di onnipotenza dei banchieri vicini a Dio di Wall Street e della City nasce anche da questo delirio, diciamo, di retribuzione, ma è una mia opinione. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. L'avevate chiesto, ve l'abbiamo ridato. Gordon Gekko, Wall Street, l'avidità. Professor Bruni, dall'avidità, che è un peccato capitale, quindi è insita nell'essere umano, non ci si libererà mai, qualche regola in più si può mettere. Vuole rispondere a questo, perché poi volevo passare al tema degli economisti e del fatto che non potete tacere. Se volevo concludere su questo. No, sugli onorari dei banchieri, sui stipendi dei banchieri, ripeto, è una cosa molto importante, è un provvedimento che va preso. I consigli di amministrazione sono poi quelli che devono deciderlo e le autorità di vigilanza devono vigilare a che i consigli di amministrazione prendano questi provvedimenti di organizzazione opportuna e non eccessiva di questi stipendi. Se non lo fanno, le autorità devono intervenire in modo importante, come fanno le banche centrali quando fanno la vigilanza. Insomma, questo è un modo per assicurarsi che le banche non buttino via i soldi e non li rischino troppo. Ed è sicuramente anche un ripensamento di alcuni eccessi del così libero mercato finanziario. Nessuno ce l'ha col libero mercato finanziario, alcuni eccessi sono stati toccati, soprattutto, come scrivono molti ascoltatori, devo dire, nelle proporzioni. Le proporzioni sono importanti anche in questo caso, nessuno ce l'ha con premi di produzione, ci mancherebbe, ma quando si arriva a questi livelli forse è il caso di un ripensamento. Le previsioni OCSE, Banca Centrale Europea, oggi hanno rivisto di più o meno 0,3-0,5% le stime sulla recessione economica nel 2009 in Europa, in Italia, e anche la ripresa del 2010. Dicono la ripresa arriverà prima ma sarà più debole. Professor Bruni? Ma guardi, io non lo so, non credo che sia interessante seguire più di tanto, almeno a me personalmente non interessa particolarmente seguire queste piccole cifre che statisticamente sono poco significative. Siamo in una situazione difficile che rimarrà difficile a lungo, anche perché il sistema finanziario internazionale è tutt'altro che sbloccato e quindi il credito non fluisce ancora come dovrebbe, e in più abbiamo l'onda dello shock passato con la disoccupazione, quindi andiamo avanti per parecchio tempo. Quello che dobbiamo fare in questo periodo è fare le riforme, soprattutto quelle che costano meno, farle dando al mercato e alla gente l'idea che stiamo approfittando della crisi per cambiare il funzionamento del sistema in modo più virtuoso. Lei starà zitto nelle prossime settimane, mesi? Come dice? Lei starà zitto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Si riferisce alla lettera che abbiamo scritto sui giornali. Sì, mi riferisco oggi alla lettera che lei ha scritto oggi assieme a altri economisti, perché la lettera è arrivata a Repubblica e al Corriere della Sera ed era una risposta a questo passaggio che, ripeto, nessuno dà giudizi di valore. Io ho trovato divertente, cioè spunto per 2, 3, 4, 5 puntate, poi cosa volete? Sono limitato anch'io. Giulio Tremonti, ministro dell'economia, al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini sugli economisti. Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausto stesso, pure molto rispettabile, Prospero, il mago di Oz, Harry Potter, naturalmente c'è anche Mandrake, il mago Witz, Satanic, devo dire anche il mago Thelma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Nessuno di questi ha mai detto ho sbagliato. Hanno sempre sbagliato gli altri. Il corso dei fatti credo che abbia dato non ragione a chi li critica, ma certamente torto agli economisti come hanno rappresentato la realtà. E quello che davvero fa un notevole effetto, con qualche rimarchevole obiezione, è che il coro continua. E francamente, se ci fosse il buon gusto e il buon senso da parte di tutti di starsene zitti per un anno o due, ci guadagneremmo tutti e loro stessi. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Professor Bruni, non mi trasformi in una zucca, però insomma. Adesso, al di là del linguaggio più o meno condivisibile, noi abbiamo ospitato diversi suoi colleghi in questi giorni per chiedere se un po' di autocritica non lo potessero fare, oltre che gli analisti, i banchieri, i giornalisti, anche gli economisti che, a partire dalla Banca Centrale, dal Fondo Monetario, ma poi anche nell'Accademia, con debite eccezioni che abbiamo anche ospitato, questa crisi non l'avevano tanto vista. Oggi voi firmate una lettera assieme, cioè lei assieme a Tito Boeri, Carlo Carraro, Francesco Giavazzi, Luigi Guiso, Marco Nado, Michele Polo, Luigi Spaventa ed altri, per dire: ministro Tremonti, non ci ridurrà al silenzio. Sì, lo spirito però non è quello di guardare appunto al passato e a queste recriminazioni o a entrare, diciamo, in polemica con il linguaggio di Tremonti, che ognuno sceglie il suo linguaggio, insomma. Noi vorremmo guardare al futuro e, siccome siamo in un momento molto delicato per la politica economica italiana, non solo quella italiana, molto interessante oltre che delicato, e noi tutti siamo impegnati a riflettere, come negli altri paesi i nostri colleghi, vorremmo, come negli altri paesi i nostri colleghi, avere la possibilità e anzi direi l'incentivo da parte di un ministro e di un governo che dovrebbe farlo, un incentivo a discutere in modo molto aperto la politica economica e i suoi problemi. E quindi vorremmo da ora in poi che il dialogo con il governo in generale e con il Ministero dell'Economia, che è, diciamo, il coordinatore della politica economica, sia così si metta su un tono costruttivo, con dei dati e con una serie di argomentazioni molto fitte da una parte e dall'altra, che contribuiscano a noi a capire meglio quello che succede e quello che bisognerebbe fare, al governo di prendere qualche spunto per fare una politica economica più opportuna. Ci stiamo chiedendo una maggiore disponibilità al dialogo, all'ascolto, al dialogo. Mi sembra però adesso, per essere molto seri, voi temete che in qualche modo il ministro voglia così parlare a nuora perché suocera intende, cioè né tirar fuori il fatto che non avete fatto autocritica, che avete sbagliato le previsioni, così vuole mettere le mani avanti perché non vuole essere criticato sulle misure future, su cosa farà della legge finanziaria, dove sono i 35 miliardi di debito e quant'altro. Cioè, temete che in realtà la vera polemica, il vero obiettivo non sia ricordarvi che siete fallibili e, come dicono alcuni, presuntuosi come altre categorie, ma in realtà mettervi in guardia dal criticarlo in futuro? Guardi, io obiettivamente non capisco molto facilmente i messaggi, diciamo, che subliminali che sono sotto il modo con cui parla Tremonti. È un modo di esprimersi che non riesco a decifrare con facilità. Sono abituato ad altri tipi di linguaggi, soprattutto da persone che sono in quella posizione di responsabilità e che, diciamo, parlano degli intellettuali. Quindi io non sono in grado di capire quali sono i suoi retropensieri. Penso solamente che occorre, ed è sano, che in un paese che deve fare politica economica ci sia un dibattito il più fertile, il più intenso possibile e soprattutto preciso, con delle tabelle. Dobbiamo parlare di provvedimenti specifici, farlo con dei numeri e noi siamo pronti, siamo qui e non facciamo altro tutto il giorno che fare i conti, fare i numeri e fare le prove e aspettiamo che dall'altra parte ci sia disponibilità uguale. Abbiamo questa disponibilità da parte di diversi sottocomponenti dei governi, delle banche centrali, eccetera. Quindi abbiamo un certo esercizio, lo facciamo in Europa, lo facciamo con i nostri, lo facciamo in parte con la Commissione. Cioè, il ministro Tremonti è uno di quelli che, diciamo, ma non è il solo, perché diciamo che in verità anche in passato si sono verificati degli incidenti nella difficoltà proprio di accettare il dibattito, la critica, il colloquio con tutti. Vabbè, sappiamo che la politica è sensibile, che è una tecnica politica usata in Italia come in altri paesi, quella di parlare di altri temi per evitare i temi più seri, quindi ci può stare anche il vostro sospetto. Però, visto che adesso ci salutiamo, io la ringrazio molto per la disponibilità su tutti i temi che ha dimostrato. Al di là di quello che è l'obiettivo del ministro dell'economia Giulio Tremonti, lei come economista, come rappresentante della categoria, un po' di autocritica se l'è fatta, sì o no? Siamo qui per questo, è il nostro mestiere, sì, facciamo l'esame di coscienza tutti i giorni e su questa crisi ognuno di noi ha avuto i suoi pensieri e abbiamo scritto, abbiamo... io sono diversi anni che faccio un corso di economia in Bocconi, dove gli studenti sono obbligati a studiare che verrà la crisi. No, pensavo a chiedere scusa. I miei studenti sono 5 anni che devono venire all'esame dicendo che arriva la crisi. Quindi, io da questo punto di vista sono E adesso cosa dicono? Perché adesso cosa dicono? Perché bisognerà anche cambiare domanda. Comunque, no, la ringrazio veramente anche per la disponibilità. Lo dico a chi scrive, noi invitiamo tutti, facciamo sentire tutto, diamo le nostre opinioni, ma questo è uno spazio aperto per cui giustamente ci sono opinioni diverse, anche tra gli economisti, e ci mancherebbe, così come anche tra i politici e i giornalisti. Grazie a Franco Bruni, che insegna economia e monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Salagadula. Va bene, non vi scaldate. Siamo qui per parlare, discutere e soprattutto cercare di dare dati e dare i numeri senza impazzire. Le informazioni per chi è in viaggio, poi diamo i numeri della borsa: più 0,7% il FTSE MIB, più 0,78% il FTSE All Shares. La cosa interessante è che Milano oggi è la borsa, è l'unica borsa positiva tra quelle maggiori, c'è anche Bruxelles, tutte le altre europee hanno chiuso in negativo. Di nuovo in diretta, adesso i mercati, poi Basilea 2, che non è un nuovo complesso immobiliare alle porte di Basilea, ma è la regola a cui devono sottostare purtroppo banche e imprenditori nell'erogare il credito. Adesso dicevo i mercati finanziari, come sempre con Radio Cori, Sole 24 ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Fondiaria SAI, più 4,7%. Sì, Fondiaria 6 ha ripreso quota oggi a Piazza Affari dopo le perdite che avevano portato le azioni a perdere oltre il 6% dal 25 agosto. Il mercato scommette in particolare su un rafforzamento nel capitale da parte della Premafin, la società della famiglia Ligresti, che detiene il 41,6% della compagnia assicurativa, attraverso l'acquisto di azioni sul mercato visto la debolezza di Fonsai. D'altra parte, proprio la relazione semestrale di Premafin sottolinea come la società stia già oggi comprando titoli, ha acquistato un primo pacchetto dello 0,88% a gennaio e ha intenzione di continuare a rafforzare la presa su Fondiaria SAI. Allora, questo quindi il rafforzamento di capitale da parte della Premafin scatena gli acquisti sul titolo che va a 13,66 euro. In generale, i motivi per cui Milano oggi è stata l'unica borsa positiva, Guido, si chiamano Fondiaria, ma mi sembra anche Unicredito e poi i titoli legati alle costruzioni, Buzzi Unicem più 2,5, i Tacimenti più 1,40. Sì, si sono mossi al rialzo titoli come Atlantia, quindi le autostrade, eccetera, e poi il settore delle costruzioni che nella prima parte della settimana era stato penalizzato e che invece oggi ha ripreso quota con più decisione. In particolare, come già sottolineavi tu, Impregilo ha guadagnato il 4,36%, Buzzi Unice 1,249%, insomma c'è un ritorno di attenzione visto che questi titoli erano stati fra i più penalizzati in avvio di settimana. Ancora, mentre al 349-238-6666 non si placa la polemica sugli economisti, i politici. Allora, un inciso, lo diciamo da lunedì, da quando il tema lo stiamo portando avanti. È vero che anche i politici, spessissimo, quasi sempre, non fanno autocritica. C'è una differenza, lo continuiamo a dire. Il politico, comunque vada, è esposto al giudizio degli elettori e i governi cadono, le maggioranze cambiano, c'è l'alternanza. E quindi un cattivo ministro dell'economia tendenzialmente rischia di pagarla poi a livello elettorale, e un buon ministro dell'economia viceversa dovrebbe ottenere un vantaggio. L'economista, l'accademico, tendenzialmente non perde la cattedra, tutto qua, per cui l'autocritica dipende anche dal contesto in cui si è. Chiusa la polemica, perché sennò poi non verranno più in questo programma né gli economisti né i politici. Atlantia più 4,7, Impregilo più 4,3 e appunto Buzzi Unice più 2,5, tutto in risveglio settore costruzione e infrastrutture? Sì, e in risveglio appunto tutto il settore, lo è anche nel resto d'Europa. Per quanto riguarda invece Atlantia, va sottolineato che ieri la società ha pubblicato i dati sul traffico autostradale che hanno mostrato come nel periodo luglio e agosto ci sia stata una ripresa, c'è stato un incremento dello 0,9% e questo in qualche modo è anche un po' un segnale, un termometro, è considerato uno dei termometri anche dell'economia, visto che per tutta la prima parte dell'anno i dati sul traffico autostradale insomma erano scesi molto e insomma a luglio-agosto invece c'è stata una piccola ripresa. Beh, grazie alle code, vabbè, e agli ingorghi. Andiamo avanti, Unicredito più 3%, il caso di oggi, non penso che siano solo dichiarazioni di profumo. Perché... Sì, in realtà oggi tutto il settore bancario si è mosso in modo un po' ondivago. Certo, ci sono le dichiarazioni di profumo che sottolinea come l'Europa dell'Est in qualche modo si stia riprendendo, c'è una piccola ripresa. C'è anche uno studio da parte di Citigroup che invece è piuttosto critico sul settore bancario italiano, in quanto sottolinea che anche nella seconda parte dell'anno la raccolta delle banche italiane resterà debole, così come la redditività. Le banche hanno reagito in ordine abbastanza sparso. A fronte del guadagno del 2,98% di Unicredit c'è UBI che ha ceduto lo 0,92%, il Banco Popolare che ha ceduto lo 0,5%, quindi una situazione abbastanza eterogenea. Allora, i titoli negativi oggi sono UBI Bank -1,90% e continua a pesare questa mestrale su UBI Bank. Parmalat -1,80%, Campari -1,20%, Mediaset -0,7% come Alleanza e Generali e anche Terna. Chiusura col botto per risanamento dopo l'accordo delle banche, ha guadagnato il 14%, è arrivata a guadagnare anche il 18%, e Banca Italease più 10,1%. Abbiamo 30 secondi, 30, Guido Maurino, per capire che cosa è successo su Banca Italease. Allora, su Banca Italease ci sono due aspetti da sottolineare. Il primo è il fatto che ieri il titolo aveva perso 6,36%, insomma aveva fatto un bel tonfo, oggi si riprende. Rimane molto movimentato in attesa di questo aumento di capitale più volte annunciato da parte della banca e che dovrebbe poi consentire il delisting della società. C'è in programma un CDA da parte di Banca Italease martedì prossimo e lì si dovrebbe provvedere a convocare l'assemblea. C'è anche in parte l'effetto risanamento, perché fra gli accordi stretti con le banche che da parte di risanamento c'è anche quello su Italease e questo in qualche modo ha anche portato al rialzo del titolo oggi. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, le informazioni del nostro GR, poi ripeto come modificare o sospendere Basilea 2 e quindi queste regole troppo strette, asettiche, spersonalizzate per concedere credito alle imprese, l'hanno chiesto oggi i presidenti di Confindustria italiana e quello tedesco, e Bruxelles poco fa ha detto possiamo ragionare su un'eventuale sospensione di Basilea 2 e poi chiaramente anche il giudizio della Banca Centrale Europea sullo stato economico. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso della richiesta arrivata dagli industriali tedeschi e italiani a Bruxelles, ossia rivedere i criteri, i parametri, insomma, di Basilea 2 e poi la Banca Centrale Europea che lascia i tassi invariati. Non possiamo tornare, come mai facciamo infatti nella seconda ora, sui temi della prima parte del programma. Lo dico a chi scrive al 349-238-6666 ancora sugli economisti Tremonti, la classe politica, l'autocritica che dovrebbero fare i politici oltre che gli economisti. Alcuni dicono vabbè, ma i politici non pagano, da 20 anni sono sempre gli stessi. No, non è vero, cioè, nel senso, può anche essere vero per alcuni versi, ma in realtà se una persona non sa gestire la variabile economica, un politico rischia di perdere le elezioni. Si parlava in generale, in Giappone è appena successo, Gordon Brown ne ha tratto un vantaggio in Gran Bretagna da come ha gestito la crisi, la Merkel non sembra averne tratto dagli ultimi dati delle elezioni tedesche regionali un grosso vantaggio. Insomma, è politico, comunque poi lo si voglia definire, risponde al corpo elettorale, questi non ci sono dubbi, altre categorie rispondono meno o rispondono per nulla. Tutto qua, questa era la riflessione. Comunque, Basilea 2 non è, come dicevamo, un quartiere di nuova costruzione della città svizzera, ma è il modo, l'insieme di regole a cui devono attenersi le banche europee quando devono valutare come e perché e in che quantità concedere un credito a un imprenditore. È stato ideato per appunto avere dei criteri omogenei, e la critica è che in realtà ha ingabbiato, ingessato le valutazioni dei singoli direttori di banca o responsabili di aree con dei criteri che saltano inevitabilmente con la crisi che ha travolto anche l'economia europea. E allora sentiamo perché e che cos'è questa benedetta o maledetta Basilea 2. Si chiama Basilea 2 perché è infatti la revisione di un precedente accordo che risale al 1988. In quell'anno il Comitato di Basilea decise di proporre un sistema di misurazione dell'adeguatezza patrimoniale degli istituti di credito, il cosiddetto accordo di Basilea. L'assunto di base era che il patrimonio delle banche dovesse essere adeguato ai rischi assunti. Vale la pena ricordare che i rischi principali in questo caso sono due. Da una parte il rischio di credito e dall'altra il rischio di mercato. Si parla di rischio di credito nel caso delle emissioni obbligazionarie perché l'emittente potrebbe dichiararsi insolvente e non pagare il debito contratto. Il rischio di mercato è invece dovuto alla difficoltà del mercato stesso di fotografare la congiuntura economica presente e soprattutto quella di là da venire. In pratica, si decise che ogni rischio, di credito e di mercato, dovesse essere quantificato secondo regole precise di calcolo e supportato da capitale, il capitale di vigilanza. Maggiori sono i rischi assunti, maggiore deve essere il patrimonio accantonato. Nel 99 si sentì l'esigenza di un aggiornamento delle regole e iniziò il percorso lungo e tormentato verso Basilea 2, un accordo ancora più complesso di quello originario, che contiene diverse novità. In estrema sintesi, le imprese finanziarie dovranno tenere conto non solo dei rischi di credito e di mercato, ma anche dei rischi operativi, come il collasso dei sistemi informativi o la frode di un dipendente. Inoltre, dovranno adottare un nuovo metodo di misurazione del rischio di credito, basato sul rating interno ed esterno. A ogni categoria di rating corrisponderà ora un diverso requisito in termini di capitale da mettere a riserva. Si tratta di una novità assoluta, di un'applicazione particolarmente difficile per le piccole e medie imprese, che temono di apparire troppo rischiose e di vedersi quindi restringere le opportunità di credito. Un timore fondato, perché in realtà Basilea 2, da quello che vediamo empiricamente, concretamente, ha penalizzato le piccole e medie imprese. Perché? Perché chiaramente sappiamo tutti che la gestione delle volte dell'impresa quando è piccola, dei bilanci, è fatta in casa, un po' familiare, e allora se a conoscerti è il direttore della filiale, conosce la tua storia, il tuo passato, i tuoi difetti, i tuoi limiti, vogliamo dire tutto, anche il tuo nero se eventualmente ce l'avessi, ma se invece lo stesso direttore della filiale deve rifarsi a dei criteri come le tavole della Bibbia, diventa più difficile, tu finisci in un calderone negativo. Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ho riassunto bene i timori delle piccole imprese, correggimi. Riassunto benissimo. Ti ringrazio, ho passato anche la sintesi sugli accordi e anche la presentazione dei problemi che ne hai fatto. Ora che ho passato l'esame ti saluto. No, scherzo, voglio capire perché invece c'è un'iniziativa importante dal punto di vista politico come quella che hanno preso la Confindustria tedesca e la Confindustria italiana nel chiedere, lo hanno fatto oggi a Bruxelles, una moratoria su Basilea 2, allentare immediatamente le regole in vigore e con un intervento della stessa Unione Europea. Tra l'altro aggiungono le due Confindustrie che in Germania e in Italia ci sono preoccupanti segnali di un credit crunch, cioè di una restrizione del credito, cosa che temiamo da tempo. E poco fa ha risposto la stessa Bruxelles dicendo che l'Unione Europea terrà conto delle richieste della Confindustria tedesca e della Confindustria italiana. Qual è l'obiettivo? Perché l'obiettivo non è fare in modo che le banche concedano credito in maniera più rischiosa, chiaramente. L'obiettivo è di riuscire in questo momento di crisi a evitare appunto il credit crunch, quindi la restrizione di credito alle piccole e medie imprese soprattutto, e in effetti per i problemi che tu spiegavi prima, perché questa applicazione automatica dei rating, quindi questa valutazione appunto automatica dei bilanci, del cosiddetto andamentale, che è la puntualità del pagamento delle rate da parte delle imprese, poi alla fine danno un giudizio sull'attività imprenditoriale come lamentano gli imprenditori, troppo asettico, che prescinde poi dal progetto, dalla storia dell'impresa, dal fatto che ci sia al vertice lo stesso imprenditore che magari l'ha creata, l'ha portata al successo, dalla crisi congiunturale del settore. Ecco, quello su cui premono Confindustria e le imprese è che ci sia di nuovo questo rapporto forte delle banche con il territorio come c'era in passato e che ci possa ritornare un dialogo tra l'imprenditore e il direttore di filiale, che possa conoscere la storia dell'azienda e vederne poi le potenzialità al di là di questa crisi congiunturale. In questo anno 2009 gli ordinativi sono crollati del 30, del 40, del 50%, il fatturato idem del 30, 40, 50, appunto del 60%. È chiaro che se qui non c'è, per carità, anche le banche sono aziende e devono valutare i propri rischi, non si chiede certo di prendere rischi o di finanziare imprese decotte, però di avere quella flessibilità in più e di dare soldi a chi magari ne ha bisogno in questo momento per cavalcare questa fase di crisi e rimettersi in pista per la ripresa dei prossimi mesi che tutti dicono che dovrebbe arrivare. Quindi una gestione del credito meno automatica e con più protagonismo da parte dei banchieri. Quindi Lo dicono perlomeno a parole. Per esempio ieri c'è stato questo accordo firmato da Unicredit con gli artigiani, con sì, i commercianti, ecco, proprio per l'obiettivo era proprio superare queste regole di Basilea 2. Poi bisognerà vedere allo sportello cosa succede in realtà. Sì, sarebbe un po' come chiedere a uno che ha la casa allagata di usare ancora le pattine, perché con i chiari di luna e la situazione economico-finanziaria che si è venuta a creare, è ovvio che tu non puoi dire, però le regole per valutarti restano quelle di prima. Bisognerà capire quali imprese sono in difficoltà solo perché c'è un'economia azzoppata a livello mondiale che sta faticosamente cercando di riprendersi, e quali imprese invece sono in difficoltà perché oggettivamente non ci stanno più dentro come modello di impresa, e quindi lì è più rischioso e forse anche sbagliato concedere credito se il tuo modello non funziona più. Di questo, la cosa che è interessante, Nicoletta Picchio, è che comunque il documento è di due delle principali Confindustrie di tutta Europa, cioè Germania e Italia. Germania e Italia, perché questa situazione è diffusa anche in Francia, non è che, perché per esempio già Sarkozy da mesi ha istituito questa figura del mediatore del credito che sta funzionando proprio per sopperire ai problemi di rapporto delle imprese con il credito. Comunque c'è questo rapporto forte tra la Confindustria italiana e quella tedesca, e devo dire che la Confindustria italiana anche nella battaglia su Kyoto ha avuto come primo alleato importante proprio la Confindustria tedesca. Il problema c'è, e indubbiamente il fatto che queste due Confindustrie si mettano d'accordo, scrivano congiuntamente una lettera a Barroso e pongano il problema a livello europeo, questo dà più peso a questa iniziativa. Anche il ministro Tremonti, nel primi di agosto, quando fu firmata la moratoria per il debito, no? Contro ABI e le organizzazioni imprenditoriali, aveva confermato l'impegno di volersi adoperare in sede europea per far rallentare i parametri di Basilea 2. Appunto, però questa è una decisione che va presa a livello di, certo, di a livello europeo. Le banche comunque hanno già da sole una possibilità, cioè una possibilità di allargare il raggio del proprio intervento, anche al di là di un cambiamento delle regole, cioè nessuno vieta a chi sta seduto dietro la scrivania di una banca a poter dare del credito, non dico sì, vabbè, però se poi arrivasse un'indicazione a livello europeo avrebbe ancora più paletti su cui appoggiarsi. È importante anche che dall'Europa sia arrivata un'apertura sostanziale, dicendo ne terremo conto, adesso vedremo cosa fare. La risposta di Barroso. Grazie a Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore. Chiedo scusa per il ritardo sulle informazioni per chi è in viaggio. E poi la Banca Centrale Europea, tassi invariati, prospettive di ripresa economica prima del previsto, ma più lenta del previsto. L'attività economica nell'area euro si è contratta solo leggermente nel secondo trimestre dell'anno. Le indicazioni per il terzo trimestre sostengono la visione secondo cui l'economia dell'area euro si sta ulteriormente stabilizzando, ma rimane alto il livello di incertezza. Le previsioni di Eurostat indicano che la crescita media annua sarà compresa tra meno 4,4% e meno 3,8% nel 2009 e tra meno 0,5% e più 0,9% nel 2010. Rispetto alle stime di giugno, c'è stata una revisione al rialzo per entrambi gli anni. Per ciò che riguarda il fronte dei prezzi, l'inflazione è prevista di nuovo in territorio positivo nei prossimi mesi e resterà tale anche più avanti. Le attese per l'inflazione nel medio-lungo termine rimangono fortemente ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenere il tasso di inflazione sotto o vicino il 2%. Le proiezioni circa l'inflazione indicano per il 2009 un tasso compreso fra più 0,2 e più 0,6% e per il 2010 fra più 0,8% e più 1,6%. Si tratta di una revisione leggermente al rialzo rispetto alle proiezioni di giugno. E sulla base di queste prospettive, inflazione, deflazione che va a finire nei prossimi mesi, quindi tornerà un po' di inflazione, una crescita economica, o meglio, una recessione economica che è minore di quanto non si prevedesse qualche mese fa, la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati, come ampiamente ricordato anche oggi. Beda Romano, corrispondente Sole 24 Ore, buonasera da buonasera. Francoforte. Era un po' che non ci sentivamo. E allora vediamo di riprendere le fila della Banca Centrale Europea, per, modestamente. Anche la BCE ha rialzato tutte le stime sul 2009, ossia si calerà di un meno 0,4, meno 0,5% in meno, e però ha detto che è troppo presto per pensare alla exit strategy, a come uscire. Non è il momento di uscire, ha detto Jean-Claude Trichet. Noi veramente non saremmo mai voluti entrare in questa crisi. Comunque, perché non c'è ancora un'idea di una exit strategy, di come gestire l'uscita dalla recessione? Ma la banca oggi è stata estremamente cauta e estremamente prudente, anzi Jean-Claude Trichet ha esortato alla cautela e alla prudenza, queste sono le parole che ha utilizzato in questo frangente. La banca non vuole in questo momento preparare il terreno a un'uscita dalla situazione di emergenza, né sul fronte della politica monetaria, quindi con un aumento del costo del denaro, né sul fronte della politica creditizia e quindi con una revisione di tutte le operazioni di liquidità che la banca sta effettuando mese dopo mese da quasi due anni. Trichet ha spiegato chiaramente che non è il momento di farlo, che la situazione economica è ancora troppo incerta, però ha voluto rassicurare i mercati e in generale la pubblica opinione europea nell'affermare che la banca è comunque pronta a farlo rapidamente e ha fatto notare che in particolare sul fronte delle operazioni creditizie, in altre parole sul fronte di tutte queste operazioni di liquidità che la banca ha fatto, in particolare un'operazione a 12 mesi a tasso fisso, accettando tutte le richieste di prestiti da parte delle banche, ebbene tutte queste operazioni secondo la BCE sono facilmente eliminabili, è facile per la BCE uscire da queste operazioni e ridurre quindi gradualmente la liquidità, perché si tratta fondamentalmente di interrompere e chiudere il rubinetto, e Trichet oggi ha spiegato che questa operazione è facile da fare. Visto che abbiamo dedicato l'apertura anche al tema dell'iniziativa presa da Gran Bretagna, Francia e Germania che porteranno al G20 di Pittsburgh su nuove regole, punizioni, meccanismi di controllo sulle paghe dei manager, delle banche, degli istituti finanziari, se ne è accennato magari in conferenza stampa o no? Se ne è accennato non direttamente sul problema dei bonus e delle paghe dei banchieri, ma Trichet ha spiegato che sarebbe un grave errore se in questo momento di ripresa economica o apparente ripresa economica, di buon andamento dei mercati, sarebbe un errore fatale pensare che si possa tornare a una situazione antecedente di business as usual, ha usato questa espressione. Ha insistito molto sul fatto che questa crisi è una crisi troppo grave da non tentare di risolverla alla radice, eliminando quelle situazioni che si sono venute a creare nell'ultimo decennio e che hanno portato prima alla bolla speculativa e poi naturalmente allo scoppio della bolla e alla crisi in sé. Quindi ha esortato, per così dire, i governi nazionali a introdurre dei cambiamenti, non ha parlato specificatamente dei bonus, ma è nei mesi scorsi Trichet aveva messo l'accento su questi aspetti. Sì, anche perché il business as usual possono farlo quelli che il business ce l'hanno ancora, i banchieri. Non dimentichiamo il milione di disoccupati che questa crisi ha portato in Europa solo fino adesso, i milioni di disoccupati che ha generato in America, e appunto, come tu ricordavi, citando lo stesso Trichet, le caratteristiche di questa crisi sono sistemiche, non è qualche bandito, qualche Gordon Gecko di turno, è proprio un sistema che funziona in un certo modo. Ti faccio una domanda delle 100 pistole, ma secondo te la BCE quando è che rialza i tassi? La risposta semplice è 2010. Il problema è che 2010 ha 12 mesi. Tende ad avere 12 mesi anche 2010, sì. Sì, e quindi è difficile dare una risposta più precisa. Insomma, molto dipende dalla forza di questa ripresa. Trichet apparentemente, anzi, è chiaro, Trichet non pensa che questa ripresa sia forte, non pensa che i dati del secondo trimestre verranno ripetuti nei prossimi trimestri, ha parlato di strada accidentata di fronte a noi e quindi ha lasciato intendere che di un rialzo del costo del denaro non si può parlare a breve termine e neppure a medio termine, considerando il medio termine i 6 mesi. Quindi se devo seguire alla lettera le indicazioni che ha dato oggi, beh, ho l'impressione che di rialzo del costo del denaro si debba parlare da maggio dell'anno prossimo in poi, più o meno. Quindi avremo ancora tempo, non lo dico perché poi chi ascolta spesso interessa anche capire come si muoveranno i tassi di interesse, vuoi perché ha magari investito in obbligazioni, vuoi perché magari ha un mutuo per la casa e vuoi perché ha tutte e due le cose. Grazie a Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi in ascolto di una buona serata. Ci risentiamo domani in diretta da Cernobbio, inizia infatti il workshop dello studio Ambrosetti a Cernobbio dalle 17 in poi con Focus Economia.